America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. If I win, I am going to instruct my attorney general to get a special prosecutor to look into your situation. Quando vincerò, nominerò un procuratore speciale per indagarti, ha minacciato ieri sera Donald Trump rivolgendosi a Hillary Clinton. Se fossi alla Casa Bianca, saresti in prigione. E Hillary, di rimando, sei un bugiardo patentato. Niente di quello che dice è vero, potete controllare i fatti sul mio sito. Sono questi due dei tanti passaggi inusuali del secondo dibattito presidenziale di ieri notte per la Casa Bianca 2016. Un dibattito durissimo sul piano verbale, aggressivo su quello personale. Un dibattito in formato town hall meeting, terminato con una performance di Donald Trump migliore di quello che ci si poteva aspettare dopo il disastro del video scandalo. Il candidato repubblicano ha conquistato così ai punti il diritto di mettere a tacere i compagni di partito che gli chiedevano di ritirarsi, ma non è riuscito a cancellare lo shock del video scandalo offensivo contro le donne sul piano sessuale, né quasi certamente a raccogliere approvazione al di fuori della vasta cerchia di sostenitori irriducibili che lo appoggiano a oltranza. Hillary Clinton won the debate 57% to 34% for Donald Trump. Ecco, i sondaggi CNN, il 63% degli interpellati ha detto che Trump ha fatto meglio delle aspettative, ma il 57% ha dato la vittoria complessiva a Hillary Clinton contro il 34% per Trump. Ecco, occorre sottolineare che questi dati sono stati raccolti a caldo, sono parziali e secondo me non riflettono fino in fondo la performance di Trump, perché sul piano tattico il candidato repubblicano è riuscito a tenere a colto di sorpresa Hillary convocando una conferenza stampa prima del dibattito, cosa che, come dire, ha dato subito un'impostazione di forte tensione a quello che sarebbe successo dopo. Sentiamo. I'm Kathleen Willey and I am here to support Donald Trump. Ecco, avete sentito, prima del dibattito Trump si è presentato con tre donne, inclusa Paula Jones, ex amante di Bill Clinton, che hanno accusato l'ex presidente di soprusi sessuali, di essere molto peggio di Trump, e loro stesse hanno detto di appoggiare il candidato repubblicano e sono poi rimaste in sala nel dibattito. Una quarta donna, sempre schierata con Trump, accusava direttamente Hillary Clinton, dice: ha difeso con successo negli anni 70 uno stupratore che mi aveva violentato quando io avevo 14 anni. Ladies and gentlemen, the Republican nominee for President Donald J. Trump and the Democratic nominee for President Hillary Clinton. Ecco, all'inizio del dibattito Clinton e Trump sono stati chiamati dai moderatori Anderson Cooper di CNN e Martha Raddatz di ABC in questa piccola arena allestita alla Washington University di St. Louis in Missouri, e non si sono neanche dati la mano. Quasi subito si è parlato del video scandalo. Trump si è scusato, ha detto: mi dispiace molto, sono parole che non mi rappresentano, ma parlava in modo nervoso, sconnesso. I moderatori lo interrompevano dicendogli di restare sul tema mentre lui svicolava via sulla Siria, sul fatto che l'America è grande e sul fatto che sconfiggerà l'ISIS, e a sua volta interrompeva i moderatori dicendo che preferivano Hillary. Insomma, una tattica simile a quelle che usava durante le primarie. Ha avuto dei momenti efficaci, per esempio quando ha menzionato una multa di $800,000 che ha dovuto pagare Bill Clinton a Paula Jones. Momenti efficaci li ha avuti anche Hillary, sempre più coerente, articolata, ma non è riuscita a mettere a segno un fendente decisivo contro un concorrente che si presentava con comunque malamente ferito. Uno degli scivoloni di Trump è stato quando ha preso le distanze da Mike Pence, il suo vice, ma forse lo ha voluto ripagare con la stessa moneta. Finale a sorpresa, la stretta di mano c'è stata dopo una domanda, diciamo, riconciliatrice da parte di uno spettatore. Ma avete almeno una cosa positiva da dire l'uno dell'altro? I suoi figli lo adorano, ha fatto qualcosa di buono, ha detto Hillary. La sua tenacia non molla mai, e questo è un fattore ammirevole. Ma forse, chissà, forse ciascuno parlando dell'altro pensava a se stesso. Di sicuro Trump, che in fatto di tenacia, di non mollare mai, costi quello che costi, resta insuperabile, anche se fra 30 giorni forse si accorgerà che gli sarà servito a poco.